Sono contento di celebrare con voi questa messa di Pasqua perché è il vero modo di farci gli auguri di Pasqua. Avrete sentito in questi giorni un sacco di parole. Auguri, buona festa, buona Pasqua. Non so che cosa la gente si dicesse, probabilmente diceva speriamo che il tempo sia buono per fare un buon weekend. Perché buona Pasqua vuol dire venire alla messa, celebrare la Pasqua di Gesù. E io sono particolarmente contento perché ho il cuore pieno di Gesù e pieno del Vangelo. E vorrei dirvi tante cose, tante tante cose. Vediamo se riesco in poco tempo. Alcune volte incontro delle persone che si meravigliano quando dico che la festa più grande dell'anno non è il Natale, ma è la Pasqua. Come mai? Perché la gente è emotivamente attaccata al Natale. Questa è una cosa buona. Ma a parte la spiegazione che il Natale è finalizzato alla Pasqua, cioè Gesù nasce per poi morire in croce e salvarci, no? Quindi quello è solo l'inizio. A parte questo, dovremmo capirlo anche se guardiamo che il Natale è preparato da 40 giorni, l'Avvento, la Pasqua è preparata da 40 giorni, la Quaresima. Ma il Natale, il tempo natalizio, finisce con l'Epifania, o poco dopo. Il tempo di Pasqua dura 6 settimane. Perché? Con una battuta direi perché la Chiesa ha tante cose da dire su Gesù risorto. E anch'io sono contento perché ho tante cose da dire su Gesù risorto, per cui io vi do appuntamento domenica dopo domenica per andare avanti a spiegare cos'è Gesù. E oggi vi dirò qualche cosettina prendendola dalla grande miniera di questo foglietto. Questo foglietto, se volete, tanto oggi non abbiamo più altre messe, potete portarlo anche a casa. Se qualcuno di voi vuole sottolineare alcune parole belle, lo può fare, no? Io comincerei a sottolineare la prima orazione, perché tutto parla in questa liturgia. Non solo le letture della Bibbia, ma anche le preghiere. Se avete il foglietto e volete andare a pagina 2, io vi rileggo quello che ho già pregato cantando, inizio dell'assemblea liturgica. Ho detto, o Dio, che vincendo la morte nel tuo Figlio risorto, ci hai dischiuso le porte della vita eterna, e ci hai ricolmato di gioia, serba i nostri cuori, liberi da ogni tristezza mondana, e ravviva in noi l'attesa del tuo regno. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio. E come piace, amici, non solo per gli studi che ho fatto, ma anche perché amo la parola di Dio, scomporre le preghiere. Vi faccio un esempio comprensibile a tutti. Se voi fate assaggiare una torta a una brava massaia, lei vi saprà dire quali sono i componenti. Guarda, qui c'è dentro questo, poi c'è dentro una punta di maraschino, c'è dentro una punta di questo, una punta di... Messi insieme fanno la bontà della torta. E la preghiera è così, sapete. La preghiera è come un composto di tante parole che messe insieme rendono bella la preghiera. Se mi seguite, io vorrei vederla con voi. O Dio, anzitutto ci rivolgiamo a Dio Padre. Tutte le preghiere sono rivolte a Dio Padre. Che vincendo la morte nel tuo Figlio risorto, la risurrezione è il vincere la morte. Per questo, amici, facciamo dire la messa per i nostri cari che sono morti. Popolo cristiano ha la bella abitudine nell'anniversario della morte dei suoi cari di andare dal sacerdote a dire mi dice una messa per favore in suffragio di mia mamma, di mio zio, mio... È la messa, amici, che ci salva, vincendo la morte nel tuo figlio Gesù. Ci hai dischiuso, cioè ci hai aperto le porte della vita eterna. Il paradiso era chiuso a causa del peccato di origine di Adamo ed Eva. Il paradiso era chiuso. Ma io starei qui tutto il giorno a spiegarvi queste cose. Vi richiamerei alcune icone, alcuni dipinti dei grandi maestri della pittura, perché l'arte è sempre un grande aiuto alla fede, in cui viene rappresentato, ho in mente Duccio da Boninsegna, per esempio, o altri grandi pittori italiani, in cui Gesù appare risorto e chiama alla risurrezione le anime dei morti. Dischiuso le porte della vita eterna e ci hai ricolmato di gioia. Cristiano dovrebbe essere una persona gioiosa, eh? Io ogni tanto, e qualcuno di voi lo sa, quando magari viene a fare la comunione o quando lo incontro, io gli faccio: sorridi. Non si può venire a ricevere Gesù col muso. O magari ti incontro fuori, sorridi. Cristiano è una persona che pur in mezzo ai dolori, se guarda Gesù risorto, sorride. E così va avanti. E questa è solo una prima parte in cui uno potrebbe mettersi a riflettere sulla Pasqua. Poi andiamo al Vangelo a pagina 4. Io devo correre, perché chi è che vede per primo Gesù risorto? Una donna, Maria di Magdala, una che era stata una grande peccatrice. Una donna di strada. Quanto potremmo ragionare, amici, quanto? Io incontro ogni tanto della gente che mi dice: ma io ho commesso tanti peccati, chissà se il Signore mi perdona. Guarda che Gesù ha un debole per i peccatori. Il primo santo che ha portato in paradiso chi era? Chi era? Il buon ladrone, no? Che sulla croce gli dice: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E lui dice: oggi sarai con me in paradiso. Il primo papa chi era? Pietro, che l'ha tradito. Non ti conosco. La prima donna che vede Gesù è una donna che era piena di peccati, ma si era convertita. E allora anche noi, se siamo pieni di peccati, non dobbiamo aver paura. Io ne ho fatti troppi, don Ambrogio, Dio non mi perdona. Ma Dio è venuto apposta per perdonare i nostri peccati e aprirci le porte del paradiso. Ti sei confessato questa Pasqua? Forza, sei ancora in tempo. Fatti perdonare da Dio i peccati. Questa donna, una donna di strada, però quando incontra Gesù, il suo cuore è tutto preso da Gesù. Qualcuno dice, sbagliando, hanno fatto anche dei film, perché è comodo romanzare il Vangelo, che questa donna sarebbe stata la moglie di Gesù, figurati te, o l'amante di Gesù, ma pensa a te. Ma lei era innamorata di Gesù? Io penso di sì. L'amore è una cosa buona. Forse noi siamo un po' poco innamorati di Gesù, Forse Gesù sta nella nostra testa, ma dalla testa non è ancora sceso giù fino al cuore. Se non hai un po' di amore a Gesù, mi dispiace per te, la tua fede assomiglia più a un'idea che non a un amore, a una speranza e alla carità. Gesù, innamorami di te, dovrebbe essere la nostra preghiera. Gesù, innamorami di te. E questa donna era presa. La prova che lei non riconosce Gesù subito, mica se l'aspettava. Ma ne parleremo, in queste 6 settimane ve ne dirò di cose, anche perché gli apostoli incontrano Gesù e non lo conoscono. Ma come mai? Lo vedremo. Lei non riconosce Gesù, Ma quando Gesù la chiama Maria, lei riconosce subito il tono della voce di Gesù. Non voglio essere offensivo con nessuno, ma quante volte il tuo cane sente il passo del suo padrone sulle scale? Perché il tuo cane è affezionato. Che possiamo anche noi sentire il passo di Gesù che si avvicina a noi, amici. Mi fermo qui, perché se no la prossima volta vi direi di portare il termos con dentro il pranzo, perché abiterei qui tutto il giorno a parlare. Perché primo, voi siete bravi ad ascoltare, e secondo, io sono appassionato di Gesù e vorrei andare avanti a raccontarvi. Allora facciamo stop alla prima puntata, parentesi, continua, puntini.